Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Di cosa e che cosa ci regala oggi la cronaca e l'attualità economico-finanziaria? Bene le borse, più 1% quasi Milano in questo momento, più 1,1 Parigi, più 1,35 Francoforte, più 1,5 Londra, più 1% l'America. Di nuovo molto forte il Banco Popolare, più 9%, la Popolare di Milano più 9% e il Banco Popolare più 5%. Atlantia, quindi l'ex Autostrade per l'Italia, più 4,91%, Unicredit più 3,30%. E in rialzo anche oggi Mediaset più 2,90%, Generali più 2,30%, Autogrill più 2%. Chi perde? Fiat il 3,60%, Monte dei Paschi il 2,80%, Ansaldo l'1,40%, Snam meno 1%. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, dall'America sono arrivati dei dati molto buoni sull'occupazione, o meglio sulla disoccupazione, tant'è che a questo punto la Casa Bianca dice insomma sta tornando un clima positivo. La disoccupazione in America sostanzialmente col dato di oggi è scesa al livello migliore dal 2009 e sarà questa l'occasione anche per fare il punto su un'America che lentamente, grazie diciamo allo stampaggio di moneta della Federal Reserve, ma non solo, un'America che lentamente ma insomma in maniera abbastanza consistente sta dando e fornendo indicazioni positive sull'occupazione, ma non solo. Mentre però resta alta la polemica in America sugli stipendi dei manager, soprattutto bancari, e anche l'iniziativa di Obama, dopo le dichiarazioni di Warren Buffett e Bill Gates, tassare di più i ricchi. In realtà scopriremo che è un po' diversa la situazione, minimo il 30%. Questo ci permetterà anche di parlare dei nostri manager di casa nostra. Nessuna posizione così manichea, un manager di una società privata viene retribuito sulla base di quello che decide il consiglio di amministrazione, gli azionisti sono lì, anche dovrebbero essere lì per vigilare. Certo è che, e poi ne parliamo diffusamente, se andiamo a vedere cosa è successo ai top manager americani dal 1965 al 2010, e beh, insomma, nel 1965 il top manager guadagnava 25 volte il suo dipendente, nel 90 era già arrivato a 70 volte il suo dipendente, nel 2000 era 229 volte il suo dipendente, nel 2010, cioè a crisi già scoppiata, siamo arrivati a un guadagno che è 325 volte quello del suo dipendente. Ora, non penso che i manager degli anni 60 o degli anni 70 fossero di minor valore rispetto ai manager di adesso, con tutto il rispetto per i manager di adesso. È ancora più incredibile è vedere cosa è successo sostanzialmente in questi anni. La retribuzione media nel 2010 è stata per i top manager americani di 2,7 milioni. Pensate che dal 1980 questo ha voluto dire che il loro stipendio è aumentato del 5.000%. L'impiegato americano ha retribuzione media del 2010 25.900 sterline, dal 1980 ha avuto una rivalutazione del suo stipendio del 300%. Quindi top manager britannico più 5.000% dal 1980 al 2010, l'impiegato britannico più 300% dal 1980 al 2010. La corsa alle retribuzioni dei numeri uno non si è fermata nemmeno dopo la crisi e nemmeno nei gruppi bancari e finanziari. Questo poi ci permetterà di parlare anche del nostro analista. Molti di voi ci hanno chiesto ma che fine ha fatto quell'analista licenziato perché aveva dato dei report, delle valutazioni negative su due titoli che si chiamano Parmalat e Burani. È a spasso ed vive in un ostello, lo riavremo ospite, perché no, chiaramente non dovrebbe essere così, ma è così, non lo vuole assumere nessuno ed è sostanzialmente per strada per aver fatto il suo lavoro, perché ricordo che Parmalat e Burani sono fallite con inchiesta della magistratura. E anche di parlare del rapporto banca-imprese, perché continuano a scriverci imprenditori dicendo guardate che non è vero quello che dite, a noi continuano a chiedere di rientrare oppure ci aumentano il tasso per i crediti, per i prestiti bancari, e ce lo cambiano anche senza motivi da un giorno all'altro. Quindi puntata che alcuni definiranno populista, invece a noi piace così. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio a 97 dollari al barile, le forniture, come ricordava il nostro GR, dalla Russia all'Italia, causa anche il freddo, sono scese del 30% a Tarvisio oggi, dove entra il gasdotto che proviene dalla Russia e poi fa la Bielorussia. Snamret Gas ha fatto sapere che stanno lavorando, non siamo in emergenza, e però il freddo è il motivo principale. E poi ancora l'oro a 1758 dollari l'oncia. Un ascoltatore dice: ma sempre notizie negative? No, abbiamo aperto con una notizia positiva, anche se riguarda l'America. È salito sia l'indice che monitora l'attività dei servizi a 56,8 punti, ma soprattutto 243.000 posti di lavoro in più. La disoccupazione scende all'8,3% e ai minimi in America dal febbraio 2009. Di solito l'America anticipa il ciclo, quindi, a meno che questa crisi non sia diversa anche per questo motivo, prima o poi la ripresa americana si trasferisce in Europa, di solito. Molto bene in Giappone Toyota, che ha venduto il 21% in più come vendite dopo il crollo dovuto allo tsunami, chiaramente. E stima comunque un 21% in più per tutto il 2012, mentre molto male Panasonic, una perdita di 7,8 miliardi di euro, la più pesante nella sua storia, dovuto sia al sisma tsunami che all'inondazione in Thailandia, ma anche oneri di ristrutturazione aggiuntivi legati al settore TV. E poi un effetto, come era prevedibile, del naufragio della Concordia, non sul gruppo Carnival che controlla Costa Concordia, ma sul principale concorrente, che si chiama Royal Caribbean. Royal Caribbean ha diffuso una previsione di utili in calo di quasi il 50, tra il 20 e il 50% a causa del crollo delle prenotazioni in seguito all'incidente. E adesso l'intervento del Premier Mario Monti, che sta parlando a Repubblica TV. Monti ha detto: le banche italiane devono comprare più BOT, il livello dello spread è basso ma ancora non ci soddisfa, è di 200 punti più basso dei 574 punti dello scorso 9 novembre, quando poi c'è stata la svolta politica. È esagerato usarlo come arma contro Berlusconi, ed è tornato anche sulla mobilità e sull'articolo 18. Ha detto: non ci sia uno scontro tra Orazzi e Curiazzi, per come è applicato l'articolo 18 scoraggia gli investimenti investimenti esteri in Italia. Non so se lo riformeremo, ma è da considerare una sua riforma. E poi è tornato sulla frase, quella frase a mio avviso infelice, mentre il ragionamento era perfettamente corretto, cioè il posto fisso è monotono. Ha detto: gli italiani sono troppo diffidenti rispetto alla mobilità. Ascoltiamo questo passaggio. Se per posto fisso intendiamo un posto di lavoro che ha una sua stabilità e che ha delle tutele, è ovvio che è un valore positivo. La mia frase, che ho utilizzato qualche sera fa, diceva: i giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita. Cioè, il concetto era: non avranno, come capitava ancora nella mia generazione o nelle generazioni precedenti, normalmente un lavoro stabile presso un unico datore di lavoro, di solito addirittura in una stessa sede per tutta la vita o quasi. No, dovranno abituarsi a cambiare spesso luogo, tipo di lavoro, paese. Questo non è da guardare con spavento come una cosa negativa. Per arrivare a dare un lavoro ai giovani vuol dire che bisogna tutelare un po' meno chi oggi è molto molto tutelato e quasi blindato nella sua cittadella di lavoratore tutelato, e invece tutelare un po' di più chi oggi, dicevo, è quasi, si trova in situazione quasi di schiavitù nel mercato del lavoro. Questo l'abbiamo detto ieri, nei giorni scorsi, non c'è dubbio che vi siano due caste, i paria, passatemi il termine, che sono entrati negli ultimi anni nel mondo del lavoro, e i tutelati, cioè chi vi è entrato molto prima. Ed è giusto, a mio avviso, che il governo riformi il mercato del lavoro per dare maggiore omogeneità e mettere più o meno tutti sullo stesso piano. Se poi passerà la proposta cosiddetta Boeri-Garibaldi, non lo so, quella che va a prevedere di rendere sempre più rigido il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore man mano che uno resta in quel luogo di lavoro, quindi all'inizio parti come flessibile, precario, poi diventi via via sempre più strutturato con un contratto sempre più simile al tempo indeterminato. Due notizie ancora: l'inflazione cala leggermente a gennaio, 3,2%, ma in realtà saremmo quasi in deflazione se non vi fosse l'impennata della benzina e del gasolio, più 17,4%. Adesso io rinviterò De Vita perché non ne possiamo più. Rispetto a gennaio, De Vita è il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, rispetto a gennaio del 2011, più 17%, gasolio più 25,2%. L'inflazione però dei beni da maggior consumo, quella del carrello della spesa, è cresciuta del 4,2%, con caffè e zucchero alle stelle. Zucchero più 16%, caffè più 16,5% rispetto a un anno prima. Le spese bancarie e finanziarie invece sono scese del 6,5% rispetto al mese precedente e anche rispetto all'anno, meno 2,3%. E questa, lo spiega l'Istat, è il risultato delle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti. E da questo punto di vista, quella decisa dalla manovra Monti, è un effetto positivo, c'è. Ultima notizia: lo spread si è riavvicinato a 390 punti, ma insomma era sceso a 387. Il rendimento comunque del BTP a 10 anni scende al 5,55% e con una flessione di 35 punti base. Praticamente ha archiviato oggi BTP a 10 anni la quarta settimana di fila di calo, che rappresenta il miglior andamento dal dicembre del 2009. Lo spread è ancora molto alto e adesso vedo che è ridisceso a 376 punti. Bene, bene, bene. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, anche oggi ne abbiamo qualcuna di carina. Praticamente, l'avete sentito anche dal nostro GR, ma il ministro britannico Chris Huhne ha annunciato le proprie dimissioni dopo l'incriminazione per una... è ministro dell'energia, non un ministero qualsiasi. Dopo l'incriminazione per una multa del 2003 per eccesso di velocità. Ora, non è che si sia dimesso per eccesso di velocità. Si è dimesso perché lui aveva sostenuto che la colpa era della ex moglie. Ora l'ex moglie sarà furibonda, ma soprattutto in Gran Bretagna questa cosa non è passata. Huhne si è detto innocente, ha annunciato che si difenderà in tribunale. Comunque, solo per aver detto il falso su una multa per eccesso di velocità attribuita all'ex moglie, magari la odiava veramente, ebbene si dimette un ministro. Ogni paragone e raffronto con i politici anche del centro-sinistra, lusi di casa nostra, Cosentino, Tedesco, Lusi, è nemmeno paragonabile, nemmeno fattibile. Lì c'è una manica di differenza e non solo come mare. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? giorni anche di 12 ore dentro e fuori le celle frigorifere dove la temperatura è meno 20, praticamente il giorno che si sono lamentati sono stati licenziati tutti i 19 lavoratori a Mantova. È la storia di un gruppo di operai assegnati a una ditta che commercia cibi surgelati. Giorni fa era stata segnalata una irregolarità nella busta paga. La cooperativa in questione è la BBS, con sede a Bresso, assegnataria di un appalto da parte della Prima Frost di Mantova. E praticamente la società milanese dice l'esposto presentato dall'ispettorato del lavoro costringe i lavoratori sotto la minaccia del licenziamento a velocizzare il lavoro in spregio a ogni norma di sicurezza e impone ai propri soci lavoratori turni di 12 ore giornaliere con temperatura meno 25, dispositivi di protezione logorati o deteriorati. Tra l'altro l'ispettorato del lavoro ha accompagnato questa denuncia con fotografie che mostrano alcuni dei magazzinieri che si arrampicano senza protezione tra i bancali o con le scarpe da lavoro rotte. E insomma, i lavoratori avevano già denunciato la cosa alla Guardia di Finanza, specificando che solo una parte del loro compenso, circa 900 euro mensili, compariva regolarmente in busta paga. Se la BBS con sede a Brescia ha qualcosa da dire, ci chiami al numero di Radio 24 800 24 00 24. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chiudiamo in bellezza. In Irlanda, dove il tracollo del settore immobiliare sta piegando non solo chi ha comprato casa, ma anche le banche che hanno prestato soldi e acceso mutui, in Irlanda la Chiesa Cattolica, che una certa importanza ancora ce l'ha, ha chiesto, visti i tempi di crisi e recessione economica, che i vescovi e i sacerdoti irlandesi, visto la crisi economica, i vescovi e i sacerdoti irlandesi hanno chiesto che le prime comunioni e le cresime avvengano in maniera semplice, modesta e senza sfarzo. Volete che partiamo con una buona notizia, visto che poi dobbiamo occuparci di rapporto banche-imprese, di analisti licenziati perché hanno fatto il loro lavoro, di manager che hanno incrementato del 5.000% il loro stipendio e di 325 volte il loro guadagno rispetto al dipendente. Allora, la buona notizia arriva dall'America, oltre che dallo spread nostro, abbiamo già messo le campane. 243.000 posti di lavoro in più. Il tasso di disoccupazione scende all'8,3% e il dato importante è che siamo ai minimi dal febbraio del 2009. A questo punto anche la Casa Bianca commenta il dato e dice che l'economia migliora, anzi continua a migliorare, lo ha detto il presidente del Council of Economic Advisors della Casa Bianca, commentando i dati sul mercato del lavoro americano. Stiamo andando nella giusta direzione e la buona notizia la commentiamo con Mario Platero. Non è scomparso, ha un programma da Radio 24 tutti i giorni, ora di pranzo. Mario, buonasera. Mario. Buonasera Sebastiano. Oh, adesso poi avremo anche la parte invece più dolente, ma insomma questa ripresa dei posti di lavoro americani sembra strutturarsi. Direi di sì, perché nessuno fra gli economisti si aspettava questo dato che abbiamo avuto oggi, quindi conferma che tutto sommato poi le previsioni fatte a tavolino non necessariamente sono attendibili. 243.000 posti di lavoro, direi il dato migliore dal febbraio del 2009, con un tasso di disoccupazione all'8,3%, o meglio, il tasso all'8,3% è il migliore dal febbraio del 2009. E i 243.000 nuovi salariati dipendenti sono di nuovo un numero che per trovarlo bisogna andare indietro forse di un anno o due. Dunque una buona notizia, questo conferma che la crescita americana che abbiamo avuto nell'ultimo trimestre, anche diciamo del 2011, un 2011 che è andato tutto sommato abbastanza bene, continua nel 2012. Il timore era che non continuasse questa crescita, che questo 2011 fosse stato un po' così, un accenno di ripresa, ma che il 2012 forse sarebbe partito male. Tant'è vero che la Federal Reserve non più tardi di qualche giorno fa, lo ricorderete, Ben Bernanke ha annunciato che avrebbe fatto probabilmente o comunque considerato l'ipotesi di fare un quantitative easing, di aggiungere nuova liquidità al mercato. Ecco, questo dato rimette un po' tutto in discussione, sia sul fronte della politica monetaria, sia su quello previsionale, sia naturalmente su quello politico, perché se andiamo avanti di questo passo è possibile che il tasso di disoccupazione scenda al di sotto dell'8%, la soglia magica che era stata identificata da Barack Obama come risultato delle sue iniziative economiche. Se così andrà, beh, il presidente si rafforza anche dal punto di vista politico. Certo, e qui tu già citavi, c'è anche l'effetto della Federal Reserve, che insomma ha stampato moneta, ha avuto un atteggiamento completamente diverso da quello della Banca Centrale Europea, perlomeno quella di Trichet. Mario, resta con noi, abbiamo il metodo e la pubblicità, poi invece ti vorrei interrogare sulla campagna non solo di Barack Obama, ma anche di Bill Gates e Warren Buffett, cioè fare pagare i ricchi e i bonus soprattutto dei banchieri americani. Lo facciamo usando anche un esempio che ti è familiare, però dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:33 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non vi dico gli sms che stanno arrivando al 349-238-6666 sul ministro britannico che si è dimesso per aver attribuito all'ex moglie la multa per eccesso di velocità. Non so, il raffronto con quello che avviene a casa nostra è inquietante. Allora, dicevo, Mario Platero, che sta capitando? Siamo contenti che in America torni l'occupazione, e perché, ripeto, se cresce l'America di solito anche l'Europa ne ha un beneficio, però restano in ballo la riforma di Wall Street, quella appunto che dovrebbe evitare di ricadere nella bolla da derivati. Non sono 5 volte il PIL mondiale i derivati, sono 55 volte il PIL mondiale, futures e quant'altro, e quindi separare banca d'affari da banca che fa invece raccolta classica, avere un controllo più forte, ma anche la campagna di Barack Obama sui ricchi che devono pagare. E adesso, Mario, ti faccio ascoltare un film che tu conosci bene e poi vi svelerò perché. Gordon Gekko, Wall Street 2, Il denaro non dorme mai, per me è un passaggio bellissimo. Lui va all'inizio in un'area universitaria, ha fatto anni di galera e fa un mea culpa, poi nel film si scopre che il mea culpa in realtà non c'è, ma sentiamo questo passaggio. Qualcuno mi ha ricordato qualche sera fa che una volta ho detto: la verità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è la verità che spinge il mio amico barista a comprare 3 case che non può permettersi senza dare l'anticipo. Ed è la verità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di $250,000 sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV al plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono anche un SUV. E perché non anche una seconda casa? In effetti conviene. Insomma, lo sappiamo tutti che il prezzo delle case in America sale sempre, giusto? Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre perché tornassimo tutti a fare shopping. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito. CMO, CDO, SIV, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io. Sono solo delle ADM. Armi di distruzione di massa. Mentre ero dentro, ecco che cosa sono. Mi è sembrato che l'avidità sia diventata ancora più avida e con l'aggiunta di un pizzico di invidia. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice: mica sono l'ultimo imbecille. E comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1. Con i vostri soldi. Non con i suoi, con i vostri. E glielo lasciano fare. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. Il debito indotto. In conclusione, il vero nemico è il prestito. È ora di riconoscere che è un biglietto sicuro per la bancarotta, senza ritorno. È sistemico, maligno ed è globale, come il cancro. È una malattia e dobbiamo combatterla. Allora, vi svelo subito il segreto. Mario Platero ha partecipato a Wall Street 2. C'è una scena, l'ho beccato io, lui non voleva ammettere, in cui nella cena di gala con tutti i miliardari di Wall Street si vedeva anche Platero in smoking. Vero, Platero, Mario? Verissimo, ma io lo ammetto, e come, assolutamente. Allora, non lo nascondo, anzi è stata anche un'esperienza alquanto interessante a suo tempo. Allora, veniamo alle cose serie. Un dato su tutti. I top manager americani nel 1965 guadagnavano 24 volte la paga media di un lavoratore, negli anni 90 70 volte, negli anni 2000 230 volte, nel 2010 325 volte. I mega bonus, non ve li posso leggere tutti, non si sono fermati per JP Morgan, Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, nemmeno dopo il terremoto finanziario del 2009. Che ne è stato di una riforma che dovrebbe, annunciata da Obama, colpire i ricchi, il 30% sui ricchi? Prego, Mario. Ma dunque, le riforme sono di vario genere, naturalmente. La proposta più recente di Barack Obama, dopo le polemiche che ci sono state sull'aliquota addirittura del 12,75% che ha pagato Mitt Romney sui suoi guadagni di 22 milioni di dollari, è che insomma bisogna, ha detto Barack Obama, che coloro che hanno dei redditi così elevati paghino almeno il 30% sul loro reddito. Il problema naturalmente qual è? È che il reddito di persone come Mitt Romney, come quelle dei hedge fund manager, come quelli dei private equity manager, e che hanno un reddito per una perversione della legge che fu fatta anni fa per incoraggiare i settori che così cominciavano a nascere, hanno un trattamento del loro guadagno come se fosse un guadagno di capitale, e dunque su quello si paga un'aliquota molto più contenuta, un'aliquota appunto del 15%, poi con deduzioni e varie cose si può scendere anche al di sotto. Ecco, la proposta di Obama naturalmente è una proposta populista, molto interessante, bisogna cambiarla quella regola, ma c'è una lobby fortissima di questi private di questi hedge fund manager, di private equity fund, che sono miliardari e che foraggiano i deputati e i senatori americani dicendo: io ti do i soldi, però tu, mi raccomando, non mi cambiare questa regola. Quindi sarà una battaglia dura anche, devo dire, sul fronte democratico. Sì, scrive un ascoltatore: sono le aziende che pagano gli stipendi, non siamo in un regime comunista. Ho capito, ma qui si parla della tassazione che applica lo Stato, l'avete appena sentito Mario Platero, non si dice uno può retribuire il suo manager quanto vuole, ci mancherebbe, ci sono gli azionisti, i consigli di amministrazione, anche se sul fronte della governance potremmo fare un'intera puntata. Mario, un'ultima domanda e poi passiamo alla borsa. Che ne è della riforma di Wall Street? Io da sempre sono molto scettico su Timothy Geithner, il ministro dell'economia americano, perché lui da lì viene, da lì tornerà e lì tornerà. Però la riforma che doveva separare Glass-Steagall Act, cioè evitare quello che poi la bolla che poi abbiamo avuto nel 2007, quindi rendere più forti i controlli sui derivati e quant'altro, e evitare che la banca che raccoglie la clientela poi con l'altra mano investa in strumenti così a rischio. Ma dunque, due elementi. Devo dire, si fa molto parlare anche di speculazione, di contro la speculazione, così via, così via. In realtà, se ci pensi, Sebastiano, da una parte della speculazione c'è uno che vende e c'è un altro che compra, quindi è sempre in due direzioni, quindi c'è qualcuno che scommette in una direzione e qualcuno che nell'altra direzione perde. Ecco, e questa è la linea di difesa delle banche d'affari e delle banche commerciali, cioè una cosa sono le regole che consentono una buona flessibilità del mercato, una cosa sono le speculazioni eccessive o comunque al di là del normale, come diceva Gecko in quella che poi tu stesso hai fatto capire era un'interpretazione fasulla, perché poi lui subito è andato a speculare e a guadagnare un sacco di soldi. E dunque questa riforma è abbastanza ferma. Ci sono però due cose che ti vorrei menzionare molto importanti, anche in risposta al nostro ascoltatore di prima. Cioè, è venuto fuori un dato oggi sulle aziende americane secondo cui le tasse medie per le aziende americane nel 2011 sono state del 12,1%, quindi una tassa molto contenuta. Pensa che il livello medio di tasse che hanno pagato le aziende americane su base federale, attenzione perché poi ci sono anche le tasse statali e quelle locali, ma su base federale, nella media dal 1982 al 2008 è stata del 25%, adesso siamo scesi al 12,1%, quindi Obama potrà dire che ha incoraggiato molto queste aziende. Sembra ancora bassina. Che recuperano. Quindi c'è un messaggio per il nostro governo, c'è un messaggio per l'Europa, c'è un messaggio per la Merkel, secondo cui non soltanto la politica monetaria ma anche quella di incoraggiamento fiscale funzionano, l'abbiamo visto nel dato sulla disoccupazione, l'8,3% che è molto buono. No, ma guarda, d'accordissimo che la curva di Laffer ha un senso, e quindi se tu abbassi le tasse, liberi risorse e le fai pagare anche di più, però qui stiamo parlando dei top manager, non delle tasse per tutti gli americani. Mi hai fatto capire molto bene che la riforma di Wall Street è in alto mare, è bloccata, e questo diciamo un po' l'avevamo intuito, ma la tua conferma è importante. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero. Passiamo alla borsa, però poi ci torniamo perché parliamo anche degli stipendi dei nostri manager, non vi preoccupate, tanto sono tutte persone che conosciamo, non c'è niente di male nel guadagnare tanto. Io resto più perplesso sulle proporzioni, cioè sul fatto che in questi 30 anni il rapporto tra dipendente e top manager è schizzato, perché secondo me anche Mattioli o Mattei o Valletta, cioè i grandi manager della Comit, della Fiat e dell'Eni, erano dei bravi manager, eppure guadagnavano molto molto meno in rapporto al loro dipendente. Comunque la borsa prima. Più 1% Milano, 1,5% Parigi, 1,70% Francoforte, 1,80% Londra, 1,1% rialzo del Dow Jones, euro a quota 1,31%. Ciao Condila, buonasera. Buonasera a voi. Le borse vanno bene per il dato sulla disoccupazione americana che abbiamo appena commentato, bene anche lo spread italiano, ci sono ancora attese sulla Grecia. Ma insomma, sprint delle banche anche oggi, io non lo commenterei più perché lo continuiamo a raccontare. Popolare Milano più 9,50, Banco Popolare più 5,20, Unicredit più 3,60, Generali più 2,5, Mediolanum un più 1,80, Monte dei Paschi perde il 3,5. Sì, Monte dei Paschi è praticamente l'unico bancario che oggi fa eccezione, lo ricordavi tu prima, insomma il rialzo delle banche non è una novità, se pensiamo che il Monte dal 18 gennaio ha recuperato il 70% della propria capitalizzazione. Oggi invece perde il 3,5% dopo che diciamo Moody's ha lanciato un allarme con riguardante un possibile downgrade della società, quindi un taglio del rating. Ricordiamola un po' in breve la situazione del Monte dei Paschi. In questi giorni la banca è impegnata a mettere a punto un piano alternativo a una nuova ricapitalizzazione per rispettare i parametri patrimoniali europei. E questo per quello che riguarda il Monte dei Paschi. Ricordiamo però che dal 18 gennaio appunto più 70%. Il titolo Generali. Generali, un po' che non ne parliamo di Generali. Sì, qui veniva da una situazione opposta. Nei giorni scorsi era stata un po' penalizzata anche perché si erano rinnovate le indiscrezioni, poi comunque tuttavia smentite dal numero uno, dall'amministratore delegato del Leone, Giovanni Perissinotto, legate diciamo alla joint venture che Generali ha con il finanziere Kellner in PPF. Sì. Diciamo che è abbastanza complessa la struttura dell'operazione, possiamo sintetizzare nel fatto che se Kellner decidesse di vendere la propria partecipazione ai Generali, quest'ultima dovrebbero sborsare circa 3 miliardi di euro. Per il Sinoto ha detto che questo nodo si scioglierà comunque a prescindere nel 2014, quindi la borsa diciamo, ne è stata sollevata, infatti oggi i Generali hanno guadagnato terreno. Allora, altri titoli, oltre a Generali, Fiat, anche qui viene da sedute molto positive, meno 3,70, la rubrichiamo come normali realizzi? Ha guadagnato quasi il 10%, però oggi la borsa è tornata magari a focalizzarsi su quelli che sono i dati industriali, sulle immatricolazioni che sono comunque in calo. Sì, magari ogni tanto anche quelli contano. Fondiaria SAI e Unipol, mi sembra tutti e due in positivo. Sì, qui c'è qualcosa un po' di... strano, perché Unipol guadagna il 19,12%, sulle privilegio il 20,50%. Per carità, Fondiera SAI più 14,70, c'è sfuggita qualche notizia? Cioè. Ma insomma, diciamo che se fino a ieri si potevano spiegare insomma questi andamenti così a strappi con le scommesse sul concambio, che sarà poi quello della fusione tra Unipol e Fonsai, oggi è un po' più difficile spiegarle con questo ragionamento, perché entrambi sono salite molto, quindi come dicevamo prima c'è qualcosa che ci sfugge, forse c'è qualcuno che sta diciamo rastrellando, c'è qualcuno che sta scommettendo su operazioni che al momento non conosciamo. Di fatto anche la Consob è molto attenta in questo momento su queste operazioni. Ancora migliori e peggiori in assoluto, risanamento più 23,90%, il migliore chiaramente TAS meno 5,56 è il peggiore, e di Fiat e Montepaschi abbiamo detto, segnalo negativa anche Ansaldo STS meno 1,30, Telecom meno 0,80, Snam meno 0,80. In positivo invece Atlanti, Autostrade per l'Italia più 5,56%, novità qui? No, qui no. Non ci sono novità, Benetton resta praticamente sul valore DOP, se Atlanta guadagna così tanto c'è da ipotizzare che magari, visto che tutta la galassia Benetton si sta ripensando, magari c'è chi scommette che sul settore autostradale possano arrivare più risorse. Più risorse. Mediaset più 2,17, A2A più 2,16, Prismian più 1,80 come Buzzi, Unicem e appunto Mediolanum, ma anche Autogrill e Parmalat e pure Finmeccanica. Grazie a Ceo Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, torniamo a parlare degli stipendi d'oro e nuove misure della Consob, la stretta sulla trasparenza. Raccontavamo cosa è successo in America, e cioè negli anni 60 24 volte il top manager guadagnava rispetto al dipendente, negli anni 2000 230 volte, nel 2010 325 volte, ma in Gran Bretagna, lo ricordo ancora una volta, l'aumento della retribuzione media del top manager è stata del 5.000% dal 1980 ad oggi, l'aumento della retribuzione media dell'impiegato è stata del 300%, ok? Allora raccontiamo anche quelli di casa nostra, e lo facciamo con uno spettro alato innevato forse che si aggira sopra la redazione. Sono Giulio Sapelli, sbatta un po' le ali dalla neve e ci saluti. Certo, qui sui monti c'è un freddo intensissimo. Ecco, allora, io vorrei restare il più serio possibile, ma certo, visto il tema. Allora, io ho fatto una battuta prima. E alcuni ascoltatori dicono, ma insomma i manager vengono pagati in base a quello che decidono i consigli di amministrazione e gli azionisti. Ci mancherebbe. Però ho detto, non è che Mattioli alla Comit, Mattei all'Eni, e anche Valletta la Fiat, diciamo, valessero un decimo rispetto ai nostri manager di adesso, non mi sembra, parliamo del boom economico. Allora leggo alcuni stipendi: Alessandro Profumo, vabbè, lui ha beccato anche il bonus, 40 milioni, Montezemolo 8 milioni e 700 mila, dichiarazione 2010, Tronchetti Provera 5 milioni e 900 mila, Cesare Geronzi 5 milioni, Corrado Passera 5 milioni, Paolo Scaroni, Eni 4 milioni e 4, Guarguaglini, ex Finmeccanica 4 milioni e 4, Fedele Confalonieri, Mediaset 3 milioni e 8, Sergio Babinò, Generali 3 milioni e mezzo, Sergio Marchione, Fiat 3 milioni e 4, Perissinotto e Andreani 3 milioni e 3 ognuno, e parliamo quindi di Generali e Mediaset, Diego Della Valle 3 milioni, poi scendiamo con Franco Bernabè 2 milioni e 9, 2 milioni e mezzo Renato Pagliaro, Mediobanca, e Alberto Nagel, sempre Mediobanca. Sono tutte cose pubblicate anche dai giornali, ricordo il Corriere la settimana scorsa. Allora, fermo restando che forse questa trasmissione non ci sarà più dopo questa lista. No. Ma no, sto scherzando. Ma uno dà lo stipendio che vuole al suo manager, però quello che fa spavento non è la cifra totale, che già è alta, ma è il rapporto rispetto a quanto venissero pagati negli anni 60 e 70, o sbaglio? No, io non sbaglio. Il problema, devo dire, è drammatico, ma se posso permettermi, è molto semplice. Sia allora, negli anni 60 e 70, sia adesso, erano gli stessi manager ad autosomministrarsi gli stipendi. Voglio dire, le istituzioni dell'economia sono delle istituzioni particolarissime, noi ne studiamo solo sempre il versante giuridico formale, ma come ci insegnano i grandi classici, il grande Veblen col suo libro La teoria della classe agiata, come... agiata, eccetera, le istituzioni vere sono i modelli culturali. Al tempo di Mattei, al tempo di Mattioli, che scriveva addirittura su un libricino, lui che era l'uomo più potente d'Italia, i libri che non poteva comperarsi, libri d'antiquariato, di storia del pensiero economico, visto il suo stipendio, pensi un po'. Adesso invece abbiamo i manager che, voglio dire, ogni mese possono comprarsi un appartamento, no? O una villa Antigua. No, il problema è che allora, come adesso, erano essi stessi, con la complicità degli azionisti, perché, voglio dire, sono sempre i manager che catturano i consigli di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, il consigliere al massimo può porre un velo, poi un veto, e poi, come lei sa molto bene, ci sono addirittura già dei network dei cosiddetti amministratori indipendenti, ma che fanno vedere che non hanno conflitti, non hanno mogli, non hanno. No, ma il problema sono tutte stupidaggini quello. La vera autonomia dell'amministratore indipendente è colui che non si aspetta nulla da coloro che deve contribuire a retribuire allorché lascia quel consiglio. Io faccio l'avvocato, sono indipendente lì, ma poi mi garantisco una rete di benefici difendendo la società, i commercialisti, cioè, tutte cose che la sociologia nordamericana e scandinava hanno studiato. Allora, lei ha assolutamente ragione, secondo me, e cioè questo vale anche per la politica, per il costo della politica. Se il cambiamento o l'influenza è culturale, non è solo nella governance, che tanto poi dentro il consiglio di amministrazione sono amici tuoi e hai favori dopo, è culturale. Ed ecco perché penso che serva anche parlare di queste cose, sia per la politica, vedi che per un po' non si fanno l'aumento i politici, e anche perché se passa una diversa cultura in questo senso, forse si ridurrà un po' la differenza tra dipendenti e manager. Dopo il GR, resti con noi però, professor Sapelli, perché voglio farle ascoltare cosa è accaduto a un analista che attualmente sta per strada letteralmente solo per aver dato due report negativi su due titoli poi falliti e adesso oggetto di indagini della magistratura. 349-238-6666 per gli sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chiarito, sono molto d'accordo con l'economista Giulio Sapelli, nostro ospite, tra l'altro ha appena scritto un libro, così facciamo un po' di promozione. Sapelli, un racconto apocalittico dall'economia all'antropologia, Bruno Mondadori editore. Dicevo, molto d'accordo che il tema delle retribuzioni dei top manager sia un tema culturale che non può essere risolto solo con i consigli di amministrazione e gli azionisti. Devo rispondere a un ascoltatore al 349-238-6666. È chiaro che la cosa più importante non è quanto prendono, ma i risultati. Ma attenzione, anche i grandi manager degli anni 60 portavano a casa risultati e guadagnavano 24 volte il dipendente, adesso siamo a 325 volte il dipendente. Saluto, e resti con noi Sapelli, invece una persona che alcuni di voi hanno già conosciuto. Si chiama Andrea Paladini, ex analista di una SIM. Riepilogo la storia. Buonasera Paladini. Buonasera. Lei è a spasso da un anno perché aveva emesso giudizio, non posso riraccontare tutta la storia, per due diverse case. Prima un giudizio negativo su Parmalat, che gli era stato fatto capire che non era il caso di dare giudizi negativi su Parmalat perché era un cliente importante. E poi un giudizio negativo su Burani, qualcuno se la ricorda la storia di Burani, no? Indaga anche la magistratura. E anche su un altro titolo, giusto? IT Holding? Sì, anche su IT Holding. Perfetto. Insomma, anche in quel caso c'erano comunque degli interessi che spingevano, facevano pressione perché in questo caso sottoscritto ne scrivesse bene, ecco. Ecco, adesso lei dov'è che sta? Dove abita? Attualmente sempre a Milano. No, ma dove? Dove vive? Attualmente presso un amico. Ma perché? Non c'hai soldi per la casa? Ma diciamo che essenzialmente la, diciamo, la difficoltà di trovare una collocazione, non una collocazione a livello lavorativo, poi è implicato ovviamente anche difficoltà finanziarie di, diciamo, di altro genere, ecco, per cui inclusa quella legata comunque ad, una, ad un alloggio. No, io capisco l'imbarazzo, però lei ha mandato i curricula a altre SIM che fanno analisi, immagino? Sì, sì, sicuramente, anche a diversi dei clienti istituzionali delle banche per le quali ho lavorato, peraltro anche alla luce di quelle appunto minacce a quale le avevo fatto cenno la volta scorsa, di risposte ne ho avute ben poche, c'è stato molto silenzio, neanche semplicemente una risposta no grazie, sono rimasto perplesso. A quali minacce fa riferimento, mi scusi Paladini? Faccio riferimento alle minacce che ho ricevuto praticamente da alcuni esponenti appunto di una nota banca estera. Deutsche Bank, era Deutsche Bank, no? No, Banco Santander. Banco Santander, ha ragione, mi scusi, Banco Santander. Esatto. Mm. Per cui sono rimasto perplesso più che altro perché fino ad alcuni mesi prima i clienti istituzionali si erano mostrati molto soddisfatti della performance delle mie raccomandazioni, visto che comunque io già dall'autunno 2007 ero stato fortemente negativo su tutto il mio settore. In Santander ero positivo soltanto su Parmalat, la nuova Parmalat, sulla quale poi hanno lanciato l'OPA, per cui diciamo che i trend di mercato mi sembra di averli indovinati piuttosto bene. E nonostante quello, diciamo che non ci sono stati risultati sperati in termini di riscontri da parte di clientela potenzialmente interessata, diciamo, ad avermi come analista o analista gestore. Ecco. Sì, lei un po' se le sta cercando, perché mi risulta che stia intasando l'ufficio denunce della Guardia di Finanza, quello in via Filzi a Milano, perché non hanno dato lo scontrino dal panettiere, non hanno fatto lo scontrino in pizzeria. Ma questa è un'altra storia. Allora, Giulio Sapelli, è strano che un manager o che un analista che individua dei report che non piacciono al committente, ma insomma, non trovi lavoro? Caro Barisoni, io devo dire sono un po' sconcertato, perché insomma voglio difendere il signor Paladini, il dottor Paladini, ecco, devo dire è molto spregiudicato parlare di queste cose così delicate in un modo così pubblico, ancora un po' poi gli chiedevamo dove abitava. E nello stesso tempo sono molto commosso da questa vicenda, ma devo dire la verità, non mi stupisce. L'altra SIM era Centro SIM, giusto? Ma io non voglio sapere nulla. No, ma io faccio i nomi, intanto. Io sono contrario al tiro al piccione. Ma il piccione in questo caso è Paladini, però, non le SIM. Ma dato che io sono molto più vecchio di voi, e ho vissuto dei tempi terribili dove parlare di banche o di enti o di persone per radio eccetera voleva dire che poi si scatenavano contro di loro delle energie negative terribili. Ecco, sono sempre un po' restio a fare cose di questo tipo. Devo solo dire però, e questo mi costa molto caro dirlo, perché la verità è molto triste ed è, potrebbe portare al nichilismo, ma che la storia del dottor Paladini non fa che portare all'emersione un meccanismo che io recentemente in un articolo sul Corriere ho chiamato quello dell'inchino. Chi non si inchina viene eliminato. Io so storie di manager di altissimo livello che, perché non volevano le stock option, 6 mesi dopo sono stati cacciati. Quindi voglio dire, gli inner circle, quella di cui parliamo, vede, mi ha molto colpito che c'è quello che le ha telefonato, non so chi sia, che dice: ma come, se uno guadagna molto deve avere molto? Questo vuol dire che si sta corrodendo e si è corrotto la coscienza delle nazioni, cioè il fatto che deve esserci una reciprocità non di doveri, non di affettività, non di lealtà, non di spirito di servizio, ma che l'unica reciprocità che dobbiamo riconoscere è quella del denaro. Ecco, poi come lei ha risposto molto bene, e io l'apprezzo molto per questo, dice: ma anche quei signori che c'erano prima, ma non solo guadagnavano molto, ma guadagnavano molto per lungo tempo e non hanno portato alla strage degli innocenti cui stiamo... No, anche perché Mattioli alla Comit, Valletta alla Fiat, insomma, e Valletta, Mattei Alleni, non è che proprio abbiano... ha fatto un miracolo, ha creato una fabbrica che possiamo criticarlo, politica sindacale, ma tutto quello che lei vuole. Però, voglio dire, è stato un gigante come costruttore delle grandi organizzazioni, non è vero? Ecco, però non è che il ragionier Valletta, io poi sono torinese, insomma, me lo ricordo, andava in giro e prendeva, ma poi parliamo, diciamo, non... allora quanto dovevamo dare al dottor Cuccio? Non so, al dottor Cuccia, che cosa dovevamo? Cioè, questo discorso vuol dire che ci sta minando la coscienza di un popolo. Sì, visto che appunto adesso... Che naturalmente quelli che sgarrano, che antepongono la verità a questo degrado, naturalmente devono poi dopo, devono pagare. Nell'Unione Sovietica c'erano gli ospedali psichiatrici per i Sakharov, e per il Paladino c'è l'esclusione. Allora, sì, giusto per dire, visto che citavamo i casi, io la lista di quanto guadagnano tutti i primi 30 manager l'ho già letta, però presidente di Mediobanca 2 milioni e mezzo, amministratore delegato 2 milioni e mezzo, visto che lei citava Cuccia, Fiat amministratore delegato 3 milioni e mezzo, Eni amministratore delegato 4 milioni e 4. Il rapporto con il dipendente è molto più alto, devo dire, non è solo in Italia, in Gran Bretagna è uguale, in America è uguale, in Gran Bretagna più 5.000% il guadagno dei top manager dal 1980 al 2010, mentre l'impiegato ha fatto solo il 300%. Lancio un appello a chi volesse assumere Paladino, non lo facciamo mai in questo programma, però insomma, almeno l'onestà lei l'ha dimostrata. E cambiare lavoro, Paladini? Beh, diciamo che avevo considerato anche questa opzione... Vedremo, nel senso che comunque io nel corso degli anni ho cercato di continuare a sviluppare la mia passione per l'attività di analista, ho cercato di farla con certi canoni, secondo certi principi, certi canoni anche etici, eccetera. Per cui mi dispiacerebbe poi che, come si dice, la moneta cattiva scacciasse quella buona, come si dice. Lei ha soldi, non voglio farmi fatti i suoi, ma per quanto tempo? Me ne posso rispondere in maniera abbastanza così diplomatica, per un periodo abbastanza limitato, ecco. Una settimana, un mese, un anno? Diciamo che questa è una cosa abbastanza particolare, abbastanza delicata da discutere. Preferirei mantenerlo, diciamo, confidenziale, se possibile. Beauty World and Lonely World. Adesso chiudiamo in bellezza, così vediamo sapere se mi faccio licenziare anch'io, perché c'è un ultimo caso, qualcuno se lo ricorda, è il nostro indice Piccinelli. Ossia l'indice di un imprenditore classico, base, e dei suoi rapporti con il mondo bancario. Dopo il traffico, vediamo se le banche stanno allargando i cordoni, come dicono a Piccinelli, che ha un rating alto nel mondo bancario, oppure se anche lui è soggetto a restrizioni che ci segnalano altri ascoltatori. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, resti con noi sia Sapelli che Paladini, e intanto introduco anche, così chiudiamo in bellezza, oggi l'ingegnere Paolo Piccinelli, famosissimo autore del nostro indice Piccinelli. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Titolare di Idrobenne, azienda bresciana, 15 dipendenti, l'abbiamo avuto ospite quando nel 2009 tutto si fermò, ce lo raccontò in maniera drammatica, poi le cose erano ripartite nel 2010, poi di nuovo... ci ha raccontato a metà dicembre che tutto si era rifermato. Io vorrei sapere una cosa: come va con la banca? La banca ci ha dato una doccia fredda questa settimana. Eravamo d'accordo con il commerciale della nostra banca di riferimento, una delle nostre banche di riferimento, che è Unicredit, di risentirci a fine gennaio per ridiscutere le condizioni di conto. E ci vediamo recapitare la mattina del 1 febbraio una mail: buongiorno, le comunico le nuove condizioni di conto, con tutti i tassi di interesse quadruplicati. Magari le do due cifre. Sì, grazie. Fido di cassa dal 3,45% al 12,85%. Fido di salvo buon fine dal 2,43% all'8,70%. Anticipo fatture dal 2,60% all'8,70%. Commissione disponibilità fondi da 0 a 0,50% trimestrale. Sì, però Piccinelli, mi faccia difendere anche il mondo bancario. Magari il suo merito di credito è cambiato. Non so lei che voto ha, che RA. Guardi, il nostro R sta per rating. Dottor Diego Bonometti dice che siamo un R1 su una scala da 1 a 7. E anche lui si dice esterrefatto di queste condizioni che ci hanno fatto. Al telefono stamattina mi ha detto, insomma, io non lavoro più perché è inutile che io vada a metterci la faccia e poi i miei dirigenti mi fanno perdere faccia ai clienti in quel modo qua. Posso conoscere, posso conoscere la banca, Paladini? Piccinelli? Unicredit. Oh, là, così un altro amico ce lo siamo fatti. Ma scusi, lei ha R1 su 7 livelli che sono da R1 si va a R7, sì? Sì. Stando a quello che mi dicono, perché io non ho accesso a questi dati, però stando a quello che mi dice il signor Bonometti di Unicredit è così, quindi dico, se fanno queste condizioni a me un R7 gli punta la pistola alla tempia. Sapelli, come la mettiamo? Beh, come la mettiamo? Lei ne ha parlato già diverse volte. Come mettiamo? È che c'è una grande sofferenza sul fronte del credito interbancario, cioè le banche non trovano liquidità. Il denaro costa sempre più caro. Il famoso bazooka di quantitative easing o di un'emissione di liquidità che doveva andare alle banche e dalle banche passare poi alle imprese e alle famiglie è insufficiente, voglio dire, qui stiamo con questo takeover che appunto la stolta signora Merkel ha fatto sull'Europa, anche quest'ultimo summit europeo è stato un fallimento assoluto, perché voglio dire, qui girano attorno, fanno ricorso al fondo monetario, il fondo salva stati, ma le cifre che si sentono fanno ridere. Se non si cambia lo statuto della BCE andiamo verso la deflazione, come io da 2 anni dico, e quindi chiaramente che chi le subisce in primo luogo le conseguenze? Le famiglie, i giovani che non possono avere mutui, i mutui salgono e naturalmente le imprese, però bisogna che gli imprenditori si diano una smossa, devono fondare le proprie banche, andare o alle banche cooperative o mettersi d'accordo come si faceva nella seconda metà dell'Ottocento, quando anche lì i grandi istituti bancari strozzavano gli imprenditori, questi si univano, si associavano e cooperando fondavano le banche di credito cooperativo, le banche popolari. Bisogna un po' che ci si associ, perché qui mi pare che se finché non si riformano le banche, non si spezzano le banche d'affari dalle banche di credito commerciale, come era una volta, finché non si fa a pezzi questa terribile macchina di distruzione sociale che è la banca universale, che non crea più sviluppo, ma drena sviluppo, drena risorse, gli imprenditori piangono, ma saranno sempre massacrati. Si associno, se mi diano da fare, fondino degli istituti bancari loro. Sì, ho capito, non è una cosa che si fa dall'oggi. Bisogna muoversi, ragazzi. Certo che se uno crede agli stupidotti che 2 anni fa gli dicevano che la crisi non c'era o che sarebbe finita tra un mese, non si muove. Ragazzi, bisogna che anche uno sia consapevole del tempo in cui sta vivendo. Certo che se tu credi alle folle di chi, ma lei ha già capito, perché non voglio creare altre no, altri tanto danni. Ormai non è più il Presidente del Consiglio. Vabbè, ascolti una cosa però, Sapelli, lei ha ragione sulle banche. Io do intanto la mia solidarietà totale a tutti i direttori di filiale che stanno scrivendo al 349-238-6666. L'abbiamo detto più volte che il direttore di filiale sì, ha un certo margine, ma esegue anche quelle che sono, anche e soprattutto quelle che sono le raccomandazioni che gli arrivano dalla casa madre, è una cosa. Due, da questo punto di vista stanno arrivando decine di messaggi di persone che vogliono assumere Paladini, anche di BCC. Adesso io dico una cosa, non facciamo l'ufficio di collocamento, però visto il caso scrivete al programma Focus Economia @radio24.it, vi metteremo in contatto con Paladini. Ce ne sono anche alcune interessanti, magari qualcuna me la piglio anch'io per tenere da parte, vista la puntata. Ha capito Piccinelli? Se la situazione butta devo fondare una banca, no, sì. Però, mi piacerebbe, glielo confesso, però voglio dire, o ne trovo un'altra diversa o se no. No, guardi, si è parlato di associarci, in effetti la prima cosa che abbiamo fatto io e mio fratello, appena ricevuta questa mail, abbiamo scritto all'associazione di cui facciamo parte, che è l'associazione industriale bresciana, la sezione credito e rapporti con le banche, che ci ha detto che la nostra segnalazione purtroppo non è isolata, ma che due banche in particolare sul territorio bresciano, una è Unicredit, l'altra, se vuole gliela dico a sto punto, sì, così almeno Banca, la ex Banca San Paolo di Brescia, e stanno tenendo questa politica, sembra che abbiano dei bilanci in difficoltà e questa è la politica che hanno scelto per uscirne. Per me è una politica suicida, però sono fatti loro. E il mio problema principale non è che adesso io non ho i soldi, perché io ho altre tre banche, sposterò tutti gli effetti sulle altre e Unicredit la chiuderò e la sostituirò. Il problema mio che mi lascia basito è che è possibile che una delle due parti che ha sottoscritto un contratto possa variare a suo piacimento le condizioni in questo modo, quadruplicandole, senza che nessuno mi tuteli da un comportamento simile e senza consultarmi. Io ho un mutuo casa con Unicredit, banca per la casa, io il mese prossimo posso smettere di pagare il mutuo casa che ho, vi do un quarto della rata perché ho deciso dal 1 marzo così. Cioè, noi ci sentiamo, soprattutto noi piccoli imprenditori, senza nessuna tutela, siamo alla mercé del primo che passa. Allora, in bocca al lupo, siamo in chiusura di puntata, in bocca al lupo, in un ordine, insomma, che è un ordine di... è una battaglia tra poveri. Comunque, Andrea Paladini, poi ci chiami, perché insomma queste, se ci mandano le mail le giriamo, perché insomma io, alcuni dicono che l'ho messa in imbarazzo, ma io volevo far capire quanto fosse grave la sua situazione. Mi scuso se l'ho messa in imbarazzo. In bocca al lupo al nostro indice umano, ossia l'ingegner Paolo Piccinelli. E Sapelli, io e lei che facciamo? Ci risentiamo quando le cose... la vedo in pericolo. Lei guardi, vuole venire con me e io la metto sotto la mia ala. Il cavaliere dell'apocalisse, perché la vedo a rischio, Brisoni. Vorrei dire che avrà una vita meno monotona. Sì, ma certo, perché lei va, perché? Ma perché lei è uno di quei monotoni di che hanno quei il posto monotoni fisso, chiamano il posto fisso, sì, è sì. Vero, oh signore. Questo è messo molto male. Stanno preparando degli ospedali psichiatrici per chi la pensa diversamente. Vabbè, voli via. Grazie anche al professor Giulio Sapelli. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche oggi. Noi ci risentiamo forse lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.